Siamo in collegamento telefonico con Marzia e Ilaria di Elastico Records, a cui do il benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao ragazze. Ciao, ciao. All'interno di questa settimana speciale di palinsesto speciale di Radio Città Fujiko incentrato sul lavoro, questa nostra chiacchierata va a inserirsi un po' nel contesto del lavoro nella filiera musicale, perché Elastico Records è un'etichetta discografica indipendente transfemminista queer e innanzitutto vorrei chiedervi di raccontarci come nasce Elastico Records e che cos'è. Allora, nasciamo diciamo nella parte più dolorosa degli ultimi anni, perché diciamo che la pandemia ha contribuito fortemente alla chiusura di Elastico Fart, quindi la nostra factory, il nostro luogo di residenze artistiche, ma anche di produzione artistico-musicale, di atelier, anche di intrattenimento, incontro, perché comunque facevamo anche concerti, spettacoli, presentazioni. Quello che per noi era fondamentale era continuare a stare insieme come collettivo, come associazione. Ovviamente venendo a mancare un luogo fisico dove incontrarsi e dove poter sperimentare la prossimità, la socialità, abbiamo proprio sentito il bisogno di continuare fisiologicamente un po' il nostro lavoro, che è quello di ricercare giovani artisti, e promuoverle fondamentalmente, sostenere la musica indipendente, l'arte indipendente, l'illustrazione, la grafica, il fumetto, tutti i linguaggi audiovisivi. Per cui da qui l'idea di creare un'etichetta discografica, anche perché poi all'interno dell'Elastico mi sono sempre occupata della parte della direzione artistica, della parte musicale, quindi in un certo senso nel tempo. Oltre ad aver invitato delle realtà musicali interessanti, era comunque si era formata già l'idea di voler come dire, sostenere, no? È presente quando magari ti innamori di un progetto artistico, lo inviti a suonare nel tuo spazio, ma ciò non ti basta, hai voglia di continuare, di fare qualcosa in più, no? E questa, diciamo, questa sensazione che più volte abbiamo provato proprio come associazione, come realtà, come collettivo, siamo riusciti in qualche maniera a soddisfarla attraverso la creazione di un'etichetta discografica che adesso ha finalmente, diciamo, il compito di produrre quello che riteniamo essere interessante, meritevole e, come dire, anche unico nel suo genere. Vi chiedo anche quali saranno le prossime uscite di Elastico Records e se avete voglia di raccontarcele. Assolutamente, guarda, la prossima uscita è il 5 maggio, vicinissima, è la release del nuovo singolo delle Cadavere Squisite, e si chiama Più di là che di qua, svelo il titolo, e poi ci sarà l'8 maggio, scusa, faranno un live di presentazione del singolo e di un concerto proprio al Gallery 16. E il 10 uscirà invece il video. Sempre l'8 maggio lo faranno vedere in anteprima al Gallery. E il 17 di giugno invece uscirà l'EP di 4 tracce di Seaside, che è un duo composto da Eva Benfenati e Giacomo Gaudenzi, aka Sacro Bosco. E appunto loro è un progetto tutto suonato, musica, techno, ambient, comunque siamo nell'ambito dell'elettronica, mentre invece con le Cadavere è un singolo che è più sul rock indie, è stato prodotto artisticamente da Umberto Maria Giardini in arte Molteni. E insomma, le ragazze sono carichissime, siamo carichissime tutte per questa nuova release. Che cosa significa lavorare in maniera indipendente in un mercato come quello musicale? L'indicazione indipendente nasce per distinguere un'etichetta discografica da una major, perché la major è una struttura molto più grande, verticale, dove ci sono comunque delle scelte prese dall'alto verso il basso, quindi c'è una figura che quasi sempre lavora in accordo con l'editore e le decisioni artistiche anche, non solo estetiche, grafiche, ma proprio anche artistiche, quindi intendo i testi, l'immagine di una copertina o anche a volte scelte legate agli arrangiamenti e ai suoni, vengono presi non soltanto dall'artista, ma anche proprio in relazione a delle linee editoriali discografiche. Invece una etichetta indipendente, diciamo, svolge il lavoro di sviluppo della parte di pubblicazione, di promozione di una band, di un progetto, ma è la band ed il progetto che fondamentalmente curano ogni aspetto artistico, dai testi alla musica, alle immagini di copertina, alle fotografie, a come si rappresentano, a come scelgono di rappresentare la propria identità all'esterno. E l'etichetta indipendente ha il compito di guidare, di coadiuvare la band, ma anche di aiutarla a trovare degli sbocchi ecco, lavorativi, no? Quindi magari di trovare un'agenzia di booking per i concerti. Fondamentalmente è un partner, però etichetta indipendente significa che fondamentalmente ha una struttura orizzontale e non verticale. All'interno di tutto ciò, poi, e qua concludiamo anche un po' la nostra intervista, la nostra chiacchierata e anche un po' il discorso su questa etichetta indipendente, e vi chiedo che cosa significa essere un'etichetta indipendente transfemminista queer. Allora, fondamentalmente ti posso parlare principalmente da musicista perché ho sicuramente più anni di esperienza come musicista che come discografica. Mi sono sempre confrontata ovviamente con realtà indipendenti, ma ciò non toglie che anche il mondo della discografia indipendente sia un mondo totalmente maschio, un mondo dominato e regolato da un ordine patriarcale, quindi anche nella sua rappresentazione, oltre che nelle sue dinamiche. E questo alla lunga è un qualcosa che ha stancato molte e molti di noi, per cui è nata l'esigenza di non solo di dare spazio a progetti artistici composti da donne, da produttrici, da DJ, da musiciste, ma è nata anche l'esigenza di far guidare un po' la macchina discografica alle donne, ma anche a soggettività queer, perché comunque la musica è un linguaggio come l'arte, e se vogliamo che anche questo linguaggio cambi e quindi adotti una terminologia diversa, immaginario diverso, è bene che appunto anche il dietro le quinte sia consapevole, cosciente, sia aperto a tutta una serie di cambiamenti, di volontà che smantellano sicuramente, che hanno il compito di smantellare la visione patriarcale. Quindi per noi ha un senso molto politico, però anche non svincolato dal senso artistico, perché comunque il linguaggio è importantissimo, che tu scelga di cantare in inglese o in italiano, o che tu scelga di fare comunque musica soltanto strumentale, perché uno dei nostri progetti, Seaside, per esempio, fanno musica insomma, ambientale, techno ambient ed è senza testo, però comunque la maggior parte dei soggetti artistici che noi scegliamo di produrre sono comunque per la maggior parte donne, non solo, anche identità fluide, comunque abbiano una sensibilità queer nel senso più ampio del termine, quindi comunque non convenzionale a 360 gradi. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo di questa chiacchierata e come sempre speriamo di risentirci presto. Guarda, grazie a te dello spazio, è veramente molto importante che anche le radio siano sensibili a questo tipo di cambiamento, quindi ancora grazie per lo spazio e l'attenzione.